Yes, asking for a cappuccino after a meal is a common mistake among foreigners in Italy. In Florence, waiters are used to it, so maybe they'll bring you your cappuccino with a sigh. But now it's time to do some real work. Lavoro. As Lorenzo and Sarah have appointments with some of the wine producers. Queste sono le parole nuove. Le ripeta dopo la seconda volta. Un quarto d'ora. A quarter of an hour. Un quarto d'ora. Un appuntamento. An appointment. Un appuntamento. Il dottor. Doctor. Il dottor. Il direttore commerciale. The sales manager. Il direttore commerciale. Cantina. Cellar. Cantina. Buon lavoro. Work well or good luck. Buon lavoro. Offre. It pays. Offre. Torni. You go back. Torni. Ecco le parole nuove ancora una volta. Il dottor, quarto d'ora, un appuntamento, cantina, offre, il direttore commerciale. Buon lavoro. And finally, torni. That last word is from the verb tornare. To go back. Torno. I go back. Torni. You go back. Torna. He goes back. Torna. She goes back. You go back. Formal. Torniamo. We go back. Tornano. They go back.